Frequentemente i salmi ci ripetono quello che ci dice anche oggi il Salmo 118 nei versetti 9 seguenti. Come potrà un giovane mantenere pura la sua via? Osservando la tua parola. E ancora ripete questo concetto: non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie, non dimenticherò mai la tua parola. Insistono molto perché la nostra azione dipende dal nostro pensiero. E allora dobbiamo riflettere che cosa mettiamo dentro nella nostra testa. Io non credo affatto a quelli che dicono: ah, io sono indipendente, penso solo secondo la mia testa. Povero illuso. Ciò che noi abbiamo dentro è il frutto di un sacco di influssi. Si tratta di vedere quali sono questi influssi che poi determineranno il nostro modo di pensare e il nostro modo di agire. Anzitutto possiamo dire che dipende dalla nostra famiglia, certamente, e quindi questo dovrebbe farci riflettere che cosa entra nelle nostre famiglie. La stampa, per esempio, sebbene oggi sia sorpassata dai video, dagli altri mezzi di comunicazione, però è ancora importante un giornale di riferimento, un settimanale che magari ti dà uno sguardo sulla realtà in un modo piuttosto che nell'altro. E poi dipende da quello che si veda in una famiglia. Quando la televisione si fulmina perché è troppo calda, quando la televisione uno arriva dentro in casa e tac, per prima cosa la accende, è chiaro che trasmette quello che vuole. Io ho sempre presente quello che mi diceva un uomo, peraltro di grosso rilievo, anche culturale. Mi diceva: io accendo la televisione in casa mia solo dopo aver visto il programma settimanale dei programmi, perché voglio essere io a guidare quello che entra nella mia mente, non essere esposto a quello che gli altri vogliono seminare. Questo è un grande principio, no? Non è che uno deve abbeverarsi a quello che gli altri ti danno da bere. Cercherò di scegliere io finché posso. Oltre a questo, è la parola di Dio. Però io ho un po' di anni e sono ormai smaliziato. Sebbene da una vita si predichi che la parola di Dio deve essere letta, io sono a conoscenza di pochissime, ma pochissime famiglie in cui la parola di Dio viene letta per davvero. Non abbiamo ancora questa mentalità. Sebbene abbiamo provato noi sacerdoti a suggerire spesso: provate una volta alla settimana, o al venerdì di Quaresima, o la domenica sera, o al sabato sera, le preghiere della sera con i vostri figli, provate a leggere magari le letture della domenica, o almeno un brano di Vangelo, in modo che si impari in casa nostra questa buona abitudine. Poi io ritengo che un ottimo strumento per farci la mentalità secondo Dio è la vita dei santi. La vita dei santi è affascinante, tante volte come un romanzo, con la diversità che è vera e che è basata sul Vangelo. Ci sono tanti strumenti, io personalmente l'ho già detto ma lo ripeto, dovendo fare magari un po' di ciclette che mi è necessaria per la salute, io vedo la vita dei santi, oppure ascolto dei discorsi su Padre Pio, su Chiara Lubich, su grandi personaggi, e ti entra dentro. E infine l'altro suggerimento che io do è: se fate parte di un movimento ecclesiale, siate fedeli. È una vocazione che Dio vi ha dato, è un dono. Se fate parte di un gruppo di preghiera, di un gruppo di Padre Pio, di un movimento, che cosa? Siate fedeli. Sono grazie che Dio ci dà per formarci il nostro modo di pensare, che poi dopo determina il nostro modo di agire.